America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Da New York, sotto l'impatto di un uragano, Mario Platero. L'uragano Sandy sta arrivando, nel senso che l'occhio del ciclone non è ancora arrivato vicino a New York, vicino a Manhattan, ma anche vicino al New Jersey, vicino al Connecticut, perché questo è un uragano che ha un'estensione di oltre 1000 chilometri. L'impatto più forte lo avremo questa notte. I meteorologi dicono che i venti raggiungeranno i 120 chilometri all'ora tra questa notte e domani. Domani sarà la giornata più dura. In light of these conditions, I'm going to sign an executive order mandating evacuation of zone A areas. Il sindaco Bloomberg, lo avete sentito, è intervenuto varie volte e ha deciso di dare un ordine di evacuazione. Lo ha deciso ieri pomeriggio. Entro le 7 di domenica, 175.000 persone residenti nella zona A, cioè in quella zona di New York esposta vicina al mare. E ricordiamo, New York è un grande porto, una città di mare, quindi non soltanto l'isola di Manhattan, ma anche Brooklyn, Queens, il Bronx, Staten Island, che è un'isola, sono esposte al mare. E dunque nelle zone costiere, la zona A, è stata ordinata un'evacuazione obbligatoria. Ci sono poi altre due zone a rischio, la B e la C, ma perché diventino a rischio occorre che l'uragano diventi da forza 1 a forza 2 e persino a forza 3, cosa che in questo momento sembra improbabile. Il sindaco ha anche deciso di chiudere le scuole, le metropolitane hanno cessato di funzionare ieri pomeriggio alle 7, gli autobus ieri sera alle 9. Come si organizzeranno coloro costretti ad evacuare? Dovevano muoversi nel pomeriggio di ieri, appunto entro le 7, prima della chiusura delle metropolitane. Il suggerimento è stato quello di andare da amici, di andare da parenti, di uscire dalla città se necessario, di andare in albergo. Ci sono anche dei centri assistenza per rifugiati che sono aperti per coloro che non dovessero trovare una sistemazione per se stessi e per i loro figli. The beaches are dangerous and surfing is extremely dangerous. You may want to run the risk, but if we have to send our emergency workers into the ocean to save you, their lives are at risk. Di nuovo il sindaco raccomanda prudenza per tutti, che tutti seguano le regole e le indicazioni, e cioè chi decide di non lasciare la casa, di non evacuare, lo fa a suo rischio e pericolo. Il sindaco sottolinea: rischia la sua vita, ma rischia anche quelle degli altri, perché se poi dovesse trovarsi in difficoltà, le squadre di soccorso dovranno andare ad aiutare e quindi metteranno a rischio la loro vita. Un appello anche del sindaco ai surfisti: sappiamo, ha detto, che vogliono recarsi a cavalcare le onde alte. Bene, li imploro di non farlo. Ma i surfisti l'hanno fatto, ne abbiamo visti a decine ieri al largo di Coney Island. Devo dire, c'è una zona di New York dove il surf è popolarissimo. Ebbene, cercavano di cavalcare queste onde, la marea si è alzata, tra l'altro perché c'è anche la luna piena. Siamo, devo dire, in un momento di convergenza di disastri naturali che è senza precedenti. Pensate, il terremoto in Canada ieri al largo delle coste canadesi 7.7, c'è stato il pericolo di uno tsunami che avrebbe potuto colpire le Hawaii, quindi un allarme tsunami. Non solo, ci sono due tempeste invernali nella zona settentrionale degli Stati Uniti che stanno scendendo a sud e andranno a scontrarsi con Sandy proprio nel momento in cui si starà per avvicinare alla costa degli Stati Uniti. E sarà proprio l'impatto con queste due tempeste invernali che farà virare Sandy e lo porterà ad entrare nel territorio americano. E Sandy è una tempesta tropicale, una tempesta con venti umidi, con pioggia tiepida. Le due tempeste in arrivo dal nord-ovest sono invece tempeste fredde, e questo impatto con Sandy, che è 10 volte più potente, provocherà un assorbimento di queste due tempeste da parte di Sandy, che acquisterà a quel punto ancora maggiore potenza e dunque diventerà una tempesta perfetta, anzi una Frank Storm, come è stata ribattezzata. You want to stay home, be prepared, enjoy the family, read a book, but you don't need to be on the roads in the middle of this. Il governatore Andrew Cuomo, anche lui, è intervenuto. A livello statale c'è preoccupazione per Upstate New York, perché il passaggio di questa tempesta sfiorerà a sud New York, ma poi devierà verso il nord, dunque verso la parte settentrionale dello stato. Il sindaco Bloomberg ha detto di aver mobilitato vigili del fuoco, ambulanze, polizia per poter aiutare altre parti dello stato in coordinamento con Cuomo. Cuomo cosa dice? State a casa. non muovetevi da casa, c'è il pericolo di oggetti che possono essere strappati, cornicioni di palazzi, cartelli stradali che possono essere strappati dal vento e possono letteralmente uccidere. Istruzioni per l'uso: ciascun newyorkese ha ricevuto un vademecum che consiglia di preparare delle borse da indicazione nel minimo dettaglio, dallo spazzolino da denti al dentifricio, al cibo dei cani e dei gatti. Portatevi i vostri animali domestici se dovete essere evacuati, dice. Coloro che resteranno a casa, fate provvista di acqua, di candele, di cibo, di verdura, di vitamine, di medicine, di qualunque cosa di cui abbiate bisogno. 4 litri per persona al giorno, questa è la raccomandazione per le provviste, ma c'è una lista molto dettagliata, la potete trovare su internet. In times like this, one of the things that Americans do is we pull together and we help out one another. And so there may be elderly populations in your area. Check on your neighbor, check on your friend, make sure that they're prepared. C'è naturalmente una componente politica in questo uragano e la sorpresa di ottobre, la vera sorpresa di ottobre. Improvvisamente Barack Obama è presidenziale, ha mobilitato la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, l'Agenzia per la Protezione Civile, in 12 stati. Sono già stati costituiti in questi 12 stati dei centri operativi, ciascun centro potrà collegarsi con gli altri e potranno aiutarsi a vicenda per monitorare e seguire la situazione. Vi dicevo, il presidente ovviamente interviene col peso del suo ruolo, mentre Romney deve semplicemente cambiare un po' i suoi percorsi elettorali, ma lo aiuterà davvero. David Axelrod, consigliere di Obama, è preoccupato. Il presidente in effetti si trova indietro nei sondaggi nazionali. In Ohio ormai sono pari, 49% per ciascuno. L'Ohio, ve lo ricordo, è uno stato chiave, e la preoccupazione di Axelrod è che coloro che dovevano recarsi al voto anticipatamente, che in genere sono più favorevoli ai democratici e a Obama, resteranno a casa. Ma c'è una preoccupazione maggiore, e cioè che in seguito ai danni dell'uragano Sandy le centrali elettriche possano essere ancora bloccate e che possa ancora mancare l'elettricità il 6 novembre, martedì, quando si deciderà chi sarà il prossimo presidente americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, Sandy ancora non è arrivato nel pieno della sua forza, ma il mio pensiero va ai 375.000 evacuati che hanno dovuto trovare rifugio. E dunque, come canzone, Bob Dylan, Shelter from the Storm, rifugio dalla tempesta. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, when the road was full of mud. I come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her, on that I give my word. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento, speriamo, perché chissà, comunicazione, elettricità, internet, tutto potrebbe essere down, speriamo, a domani. Goodbye and get going.